Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 9 minuti. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo innanzitutto di fisco e lo faremo in due occasioni, in due modi. Innanzitutto trattando quella che è l'apertura del Sole 24 Ore che oggi trovate in edicola, e non perché sia il nostro giornale, insomma il giornale del gruppo editoriale di Radio 24, ma perché è un'apertura che ci segnala come lo statuto dei diritti dei contribuenti sia stato violato complessivamente 450 volte. Secondo il Sole 24 Ore, solo a partire dal 2000 la norma che dovrebbe vietare la retroattività delle azioni fiscali, mettiamola così, dell'aggiunta di nuovi tributi, è stata violata esplicitamente. Dettagli ce ne saranno più tardi. Come si diceva, 55 violazioni esplicite nell'arco di una dozzina d'anni alla norma che impedisce la retroattività. Francamente sono parecchie, solamente due, manco a dirlo, in favore del contribuente. Questo sarà il primo argomento che affronteremo nella giornata. Come avete poi sentito anche all'interno dei nostri giornali radio, ci sono dei dati interessanti diffusi dal Censis e dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla contraffazione. Ovviamente toccheremo questo tema. Parleremo anche di corruzione con le voci che arrivano dalla conferenza stampa di oggi. Come avete sentito nel giornale radio, ci sono elementi di valutazione sullo stato della corruzione nel nostro paese, ma ci sono anche elementi economici su quanto costa effettivamente la corruzione nel nostro paese. Si diceva che avremmo parlato di fisco in due occasioni. Ne parliamo all'inizio e ne parliamo verso la fine, arrivando alla questione che riguarda invece la legge di stabilità. Oggi sono iniziati gli incontri di Mario Monti con i leader politici, con le forze politiche, e si è iniziato dall'UDC, e il tema naturalmente è come modificare questa manovra, come modificare la legge di stabilità. In particolare pesa il capitolo IVA e la questione deduzioni e detrazioni. I mercati nel frattempo, dopo una giornata piuttosto positiva, sono ancora positivi ma di poco. Il FTSE MIB guadagna lo 0,14%, il FTSE All Share lo 0,11%, mentre nel resto d'Europa le cose vanno male. Francoforte lascia sul terreno lo 0,75%, Parigi lo 0,64%, e l'America è negativa, giù dello 0,15% il Dow Jones e lo Standard & Poor's dello 0,18%, l'euro quota intanto 1,3065 contro dollaro. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di oggi. Naturalmente il numero per intervenire in diretta è il 349-238-6666. Iniziamo come sempre dalle materie prime, con l'oro in rialzo a 1727,16 dollari l'oncia. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, siamo sopra i 90 dollari al barile in America, il WTI, con consegna a dicembre a 90,8 per essere esatti, in risalita. Per quanto riguarda il Brent, invece, quello quotato a Londra, in rialzo dello 0,35% a 110,5 dollari al barile. E a proposito di petrolio, è arrivata a conclusione un'operazione molto importante, perché la compagnia statale petrolifera russa Rosneft è diventata la più grande major del mondo nel settore, con l'accordo chiuso per rilevare il 100% della joint venture russo-britannica TNK British Petroleum. Per il suo 50% British Petroleum avrà in cambio 17,1 miliardi di dollari e il 12,8% delle azioni di Rosneft. Mentre il consorzio russo AR, che detiene il restante 50, riceverà 28 miliardi, un'operazione da 61 miliardi di dollari. A proposito di energia, la tedesca Siemens venderà la divisione dedicata all'energia solare nell'ambito del piano di risparmi annunciato a settembre. Vuole concentrarsi adesso esclusivamente su eolico e idrico. Veniamo alle notizie dalla crisi che arrivano in particolare dalla Germania oggi. E da Eurostat che ha fornito i dati sui bilanci pubblici europei. Iniziamo dalla Germania, appunto. La Bundesbank conferma nel suo bollettino mensile che c'è una frenata per la Germania in linea con le stime degli esperti. Una crescita del terzo trimestre potrebbe seguire una stagnazione o anche un lieve calo del PIL nel trimestre finale dell'anno. E torna a criticare la Banca Centrale Europea, anche questa volta, anche nel bollettino mensile. Quanto più efficacemente la politica monetaria sostiene il sistema finanziario dei paesi in crisi, scrive la Bundesbank, tanto più i rischi vengono trasferiti all'eurosistema e distribuiti sulle spalle dei contribuenti dei paesi membri. I dati di Eurostat, si diceva, nel 2011 la Spagna ha registrato un rapporto deficit PIL del 9,4%, altrettanto la Grecia. Nel 2010 era al 9,7% per la Spagna e in Grecia al 9,1%. In Irlanda il rapporto deficit-PIL è stato al 13,4%, in Portogallo al 4,4%, in Italia al 3,9%, mentre il debito al 120,7% del PIL. Rivista al rialzo questa cifra, anche se di poco, dal 120,1% della prima notifica. Nel frattempo arrivano notizie dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, la BRI, che ci dice che cala a fine giugno l'esposizione delle banche straniere verso l'Italia nell'ambito della ritirata degli investitori verso i paesi dell'area euro, visti come in difficoltà. Ridotta da 182 a 175 miliardi. Intanto il ministro dell'economia Vittorio Grilli conferma le parole del presidente del Consiglio Mario Monti, che vede la luce in fondo al tunnel. Aggiunge: se riusciamo a mantenere la rotta, penso che lo sia anche nei fatti l'uscita dalla crisi. E vediamo anche come i mercati finanziari ci stanno dando fiducia. In effetti oggi lo spread è arrivato sotto i 310 punti. I nostri bisogni di finanziamento si sono ridotti, però non sono in grado di dire quando, se ci sarà una riduzione delle aste di fine anno dei titoli governativi, aggiunge Grilli. Per quanto riguarda la legge di stabilità, come si diceva, si va alla prova dei partiti. Nel frattempo, come già vi è riferito il GR, proprio nella giornata nella quale vengono presentati i dati sulla corruzione, è a rischio l'alto commissario anticorruzione istituito con la legge di stabilità. Dice il ministro Elsa Fornero del welfare: il DDL stabilità deve mantenere il fondo per l'occupazione e ristabilire il fondo per le politiche sociali pur nel mantenimento dei saldi. E poi altre dichiarazioni che fanno e faranno discutere. Se la CGIL mi invita vado in piazza anch'io, questo a proposito della manifestazione del 14 novembre. E ancora sui giovani che non devono essere troppo schizzinosi. Per essere esatti, la parola è stata tradotta così da noi giornalisti. In realtà lei ha detto: lo dico sempre ai miei studenti, non siate troppo choosy, ossia selettivi, esigenti. È meglio prendere la prima offerta che capita e poi da dentro guardarsi intorno, perché non si può aspettare il posto di lavoro ideale. La generazione NEET, Not in Education, Employment or Training, cioè giovani che non studiano né lavorano né si preparano a farlo, ha un costo pari all'1,2% del prodotto interno lordo europeo e al 2,06% di quello italiano. L'indagine è di un organismo del quale apprendiamo oggi l'esistenza, Eurofunf, la fondazione dell'Unione Europea specializzata nella consulenza sui temi del lavoro e delle condizioni di vita. Infine Ilva, di Ilva avete sentito ampiamente nei GR, la mortalità a Taranto, più 14% per gli uomini, più 8% per le donne, più 419% per i mesoteliomi pleurici. aumentati i tumori sono aumentati dal 24%, dal 24 al 100% per le donne, secondo il rapporto Sentieri presentato oggi a Taranto dal ministro Balduzzi. L'azienda è la maggiore responsabile di questo quadro e si impone un piano straordinario. Infine la contraffazione, ci torneremo tra poco, brucia 110.000 posti di lavoro e 1,7 miliardi di entrate per il fisco. A proposito di fisco, ci andremo tra poco, come si diceva, sullo statuto del contribuente, ma prima un po' di notizie di giornata, come sempre, sulle note di Rino Gaetano. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, iniziamo dall'amatissima Sicilia. Secondo la Corte dei Conti, a fine anno la regione presenterà un buco di 6 miliardi, questo è il deficit del bilancio regionale, voragine destinata a salire. Questo nel nuovo numero di A Sud Europa, settimanale del Centro Pio alla Torre. Dal 2007 al 2010 il debito siciliano è più che raddoppiato, frutto di aumento di spesa per il personale e la spesa sanitaria, che ha un'incidenza del 48% sull'intero bilancio regionale. I dipendenti delle società regionali sono oltre 7.000 e richiedono oneri superiori a 220 milioni di euro all'anno. Per non parlare della gestione rifiuti, passività degli enti locali per oltre 505 milioni. Da notare che il creditore in questo caso è lo Stato, con il Ministero delle Finanze, seguito da Cassa Depositi e Prestiti. Da segnalare oggi anche un dato pubblicato oggi dal Sole 24 Ore, quasi insomma come se fosse un dato economico. Boom di indagati nelle regioni tra giunte e consigli. Su oltre 1.300 consiglieri e assessori in carica, quelli nel mirino delle procure sono 95, più del 7% del totale. 82 indagati e 13 condannati. Si salvano solo 4 amministrazioni, Friuli Venezia Giulia, Marche, Valle d'Aosta e Veneto. In tutti gli altri casi si conta almeno un'iscrizione nel registro degli indagati. Tra Camera e Senato la percentuale sale al 13%. E anche formazioni minori come Popolo e Territorio non sono indenni. 5 sotto inchiesta. Da segnalare invece a proposito di Sicilia la vicenda di Catania, perché il sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli, ha ufficializzato la riduzione del 30% della propria indennità da primo cittadino. Risparmio stimato non solo per lui, perché viene tagliato anche lo stipendio degli altri amministratori, risparmio stimato 100.000 euro al mese. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia il fisco e come ci tratta il fisco. Vi ricordo il 349-238-6666 per i vostri sms. Saluto il professor Raffaello Lupi, docente di diritto tributario all'Università di Roma Tor Vergata, editorialista del Sole 24 Ore. Professor Lupi, buonasera. Buonasera. Allora, perché l'abbiamo, per così dire, convocata? Perché oggi il Sole 24 Ore, come si diceva, apre su questo numero veramente impressionante, perché lo Statuto dei diritti dei contribuenti è stato violato 450 volte. Così abbiamo anche il numero e la certificazione delle... non solo delle legnate, diciamo, ma delle legnate in violazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti. Lei firma un commento a questo proposito, giusto per dare qualche numero. Stiamo parlando in questo periodo lungamente della retroattività delle norme che riguardano deduzioni e detrazioni e che andranno a valere anche sui redditi del 2012, almeno se così è e così resta la legge di stabilità, ne parleremo più avanti. Ebbene, di violazioni di questo tipo esplicite ce ne sono state 55 negli ultimi 13 anni, di cui solamente due a favore dei contribuenti, come forse ci si poteva aspettare. Allora, professor Lupi, è un patto di fiducia rotto, come scrive lei? Ma lo Statuto del contribuente è una norma un po' rigida, tutte le norme si fanno sull'onda di una qualche emozione, ci sono delle leggi assurde fatte sull'onda dell'emozione contro gli evasori, malvagi, virus sociale, allora scrivi delle cose che poi... Quella era fatta sull'onda del fisco complicato, del modello 740 lunare, della fine e dell'inizio degli anni 90, quindi ci sono anche nello statuto un po' di disposizioni un po' enfatiche, tipo quella che tutti gli atti devono indicare il responsabile del procedimento, poi ti accorgi pure le cartelle esattoriali, quindi contenziosi assurdi. Chiaramente la maggior parte della deroga allo statuto riguarda questa retroattività, che però, come scrivevo nell'editoriale di oggi, è una retroattività che è sicuramente sleale, perché non è piacevole sostenere una spesa quando pensi che sia detraibile il 19% e poi durante l'anno ti cambiano le carte in tavola. Però a voler essere proprio lineari con la lealtà, allora bisogna, per tutti i mutui già fatti oggi, si doveva continuare a mantenere le vecchie regole fino all'estinzione del mutuo, cioè se uno aveva avuto una detrazione per il 2012, ok, niente retroattività, iniziamo dal 2013, se era una spesa così one shot, e quindi la spesa one shot puoi cominciare dal 2013, però per tutti gli impegni pluriennali dovevi tenerlo buono, come ci stiamo tenendo buone le assicurazioni sulla vita. Non so se gli ascoltatori hanno temuto per l'assicurazione sulla vita deducibile, quella non la tocca nessuno, quella deducibile dall'imponibile. È finita nel calderone quella delle polizze anti 2000 che però magari continuano, ante 2000 che però magari continuano anche adesso, quindi era una norma dello statuto che dice a periodo di imposta iniziato tu non puoi cambiare le carte in tavola, che è una norma importante sul piano del fair play, ci mancherebbe altro, però ecco, la ricchezza quando devi fare dichiarazione, cioè la vera retroattività è quella che ti chiedono i soldi su una manifestazione di ricchezza che non c'è più e tu magari i soldi te li sei spesi nel frattempo, no? Allora che fai, ti indebiti per pagare le imposte? Questa è una slealtà, però diciamo, teoricamente i soldi ci stanno ancora, non è così remoto, non è che stiamo tassando una vendita di un appartamento fatta nel 1984, che dice, non mi ricordo neanche che è chiaro, professore, a me tutto questo sembra chiarissimo, però c'è una domanda che sta sorgendo anche dagli ascoltatori che via sms ci scrivono al 349-238-6666 e dicono, ma insomma, alla fine questo statuto del contribuente, dei diritti del contribuente, a che serve? Utilità zero sostanzialmente. Come tutte le leggi manifesto, perché se in Italia succede qualche cosa si dice subito facciamo una legge contro questo, per quello, per i cani, contro gli infortuni, contro i vasi che cadono dai balconi, cioè abbiamo un'idea di legge onnipotente, facciamo una legge, ci sono delle cose ovvie, tipo prima di mandarti un accertamento ti devono sentire e telefonare, che non sono scritte nello statuto, ci sono delle cose di banale civiltà giuridica che nello statuto non ci sono scritte, ci sono scritte delle cose tipo il divieto di accollo, il responsabile del procedimento, anche la questione dei 30 giorni per i 60 giorni per le deduzioni difensive, che stanno facendo nascere delle questioni cinesi di un formalismo pro, cioè non è che tutto quello che veramente tutela il contribuente sta scritto nello statuto e tutto quello che sta scritto nello statuto davvero tutela il contribuente. La legge, come tutte le leggi, cristallizza un percorso parlamentare di cose che finiscono lì per caso, per carità. È meglio averlo che non averlo, il principio di buona fede. Da riscrivere. Nel complesso ci ha aiutato, ma i problemi non risolvono mai le leggi. Ma da riscrivere secondo lei questo statuto, professore? Da riscrivere, da riflettere sulla tassazione, la tassazione attraverso le aziende, che deve fare il fisco, che deve fare il contribuente. In realtà quando si è riflettuto spesso delle leggi non c'è bisogno, in Inghilterra vanno avanti benissimo con una costituzione che non esiste, però c'è il common sense. Cioè non è che fai crescere il buonsenso a botte di leggi, anzi probabilmente nel paese degli avvocati a botte di leggi il buonsenso lo ammazzi, cosa che è puntualmente successa in materia tributaria dove non si capisce assolutamente nulla, non per le leggi, per l'atteggiamento verso le leggi, cioè ognuno che deve sostenere qualsiasi cosa assurda ma uno straccio di leggina che gli consente di sostenerla tira fuori sempre. Un quadro pericolosissimo, perché non vede via d'uscita, professore, nel senso... Non vede via d'uscita, qui è chiaro che bastava, cioè qui c'è stata una forzatura politica, perché hanno voluto, visto che il governo dei professori ha capito subito che la politica è essenzialmente comunicazione, quindi ha voluto far entrare una riduzione di aliquote, che non era assolutamente prevista, in una norma di gettito fatta dall'anno... Questa era solo una norma che prevedeva l'aumento dell'IVA, il taglio delle agevolazioni, era una cambiale del precedente governo. Invece di presentarsi serenamente e dire guardate c'è sta cosa, non l'abbiamo fatta noi, l'hanno fatta con la manovra dell'anno scorso, le cose non sono talmente migliorate che possiamo dire lasciamo stare... Quindi se si fosse detto onestamente è arrivata la scadenza, no, invece hanno voluto fare il partito di lotta e di governo, non so se lo ricordo, il partito di sgravi e di rigore, ci hanno voluto mettere dentro la riduzione di 2 punti delle aliquote, siccome i conti sono quelli, hanno dovuto finanziarla con questa cosa della retroattività. Ora non si sa come venirne fuori. Perché se togli la retroattività ti salta la diminuzione di un punto dell'aliquota. A questo punto c'è quasi da sperare nelle pressioni dei partiti, cioè il governo ha quasi da sperare nelle pressioni dei partiti. Ma sarà comunque una figura non simpatica, perché poi il bilancio politico, quando in una legge si fa qualche cosa il suo contrario... Se sei abile riesci a non far vedere il contrario a seconda dei tavoli valorizzare questo o quello, se no finisce che il bilancio politico, anche se il bilancio aritmetico tutto sommato è un leggero inasprimento delle tasse, cioè alla fine se si vede doveva essere un pesante inasprimento delle tasse, al netto della riduzione di aliquote è un leggero inasprimento delle tasse, che viene presentato però come una diminuzione, una riallocazione che in sé è giusta, cioè un passaggio dall'IRPEF all'IVA è assolutamente, anche perché siccome la spesa la fanno tutti, anche gli evasori, cioè un evasore totale non è, perché uno che fa la spesa più o meno un po' d'IVA la paga, quindi è anche bene mettere dall'IRPEF all'IVA, però presentarla come una diminuzione di gettito era una cosa nata come aumento di gettito un anno fa, presentiamola così serenamente, diciamo agli italiani le cose come stanno, adesso insomma, il fatto di aver provato in termini di immagine non è un granché, non è un granché, non è un granché. Ci sei provato a farmi passare una cosa che in realtà è un inasprimento come un alleggerimento, insomma, non è, cioè, alla fine fai un pastrocchio se non sai comunicare molto bene. E dunque stiamo parlando di contraffazione con Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. È impressionante veramente, visto che abbiamo parlato proprio adesso di risorse pubbliche e dei problemi a far quadrare la legge di stabilità, i soldi che si potrebbero ricavare da una lotta efficace alla contraffazione. Voi, insomma, naturalmente fate l'ipotesi estrema che la contraffazione venga eliminata del tutto, cosa che ci sembra abbastanza improbabile, difficile o quantomeno utopica. Certo è che le risorse sono tante, Roma. Sì, noi non facciamo nessuna ipotesi, noi diciamo che soltanto il fatto che si venda 7 miliardi di beni contraffatti comporta al mancato pagamento dell'IRES, dell'IRA, dell'IVA, eccetera, eccetera, tutto questo produce un buco di 1,7 miliardi, cioè se quel fatturato fosse di un'altra bene che è regolare, se vogliamo, anche in altri comparti, poi non è che è sempre tutto regolare, però è per dare la dimensione anche in termini di perdita della base fiscale. Poi naturalmente qua stiamo parlando della domanda diretta, siccome anche quei beni contraffatti però inducono una produzione in altri settori, se vogliamo, in via del tutto teorica, però in complesso l'insieme di questa economia illegale sottrae circa 4,6 miliardi, insomma, ecco, nel senso è chiaro che sono stime e valutazioni di carattere macroeconomico, quindi poi bisogna entrare nel merito e sappiamo che non è tutto è preciso, ma il riferimento sono, i numeri sono questi, insomma, cioè se quel fatturato si tramutasse in qualcosa di legale, con un'imposizione come da leggi, e noi ci avremmo quei due numeri, 1,7 miliardi di domanda diretta e altri 2,9 miliardi di base fiscale perduta per la produzione cattiva con la domanda. Ci scrive Magdi da Milano al 349-238-6666, dice: peccato le borse cosiddette originali le fanno i cinesi a Prato. In parte è vero anche questo, in parte vengono prodotte anche fuori. Ci scrive invece Massimo, dice: se non regolamentiamo a livello di WTO, di che cosa stiamo parlando? E qua veniamo alla questione delle soluzioni, ne lo facciamo appunto con Silvio Paschi, che è segretario nazionale di Indicam. Ecco, da questo lato che cosa si può fare? Oggi qualcuno a livello politico soprattutto rilancia la questione della legge sul Made In, ma insomma forse non basta. Paschi? Pronto? Evidentemente è caduta la linea con Silvio Paschi, inizio a girarla a lei, Roma. Io penso che sia una questione, come ci dice l'ascoltatore giustamente, che vada risolta a livello internazionale, insomma puoi fare tutte le leggi che vuoi, però no, è un po' difficile contenere una marea di queste dimensioni. Io penso proprio di sì, anche perché l'organizzazione di questa produzione, che ripeto, bisognerebbe poi guardare settore per settore, perché una cosa sono le borse, ma purtroppo ci sono i medicinali, ci sono i profumi, ci sono gli alimentari, ci sono i giochi, ci sono le parti meccaniche, ci sono i freni, insomma c'è tante cose, quindi stiamo facendo un discorso largamente generale, che però anche oggi nel dibattito che c'è stato con gli operatori si va molto più in profondità. È una questione internazionale, anche perché ormai le nostre dogane sono forse le migliori che ci siano come lotta a questo fenomeno, e si sta spostando da un'altra parte, si sta spostando per esempio verso dogane e ingressi nell'Unione Europea di altri paesi, ad esempio paesi dell'est, sì, quindi più permeabili, diciamo così, e quindi magari arrivano in Italia ma non arrivano più dal porto di Napoli, possono arrivare persino, si diceva oggi il direttore delle dogane, dall'Ungheria. Quindi la questione è proprio internazionale. Poi naturalmente c'è l'altra questione, il Made in Italy, anche l'organizzazione delle imprese, perché talvolta il subfornitore italiano o straniero fa uscire da un canale che non è quello della commercializzazione ufficiale dei prodotti, non sono neanche contraffatti, lì c'è un furto di marchio, c'è un problema di truffa commerciale, però il prodotto in sé potrebbe persino essere lo stesso, perché d'altronde non è che possiamo impedire alle imprese di organizzarsi anche nel processo produttivo in maniera più decentrata di quanto non sia. Quindi forse il punto d'attacco più interessante è quello del consumatore, soprattutto il consumatore consapevole, perché guardiamo anche il consumatore inconsapevole. Ovvio. Abbiamo recuperato Silvio Paschi, lo ricordiamo, segretario nazionale di Indicam, che è l'istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, al quale appunto avevamo chiesto, prima che cadesse la linea, qual è la soluzione, cioè chi sollecita il lavoro sulla legge sul cosiddetto made in, e però l'impressione è che si debba agire presumibilmente a livello internazionale, poi come diceva Roma sul consumatore, anche se è vero come ci scrive un ascoltatore che permette la contraffazione, permette di sognare per certi aspetti, lo si giudichi positivo oppure no, insomma anche chi ha meno soldi magari può girare con la borsa presunta Prada. Paschi. Ho sentito quello che ha risposto una parte di Roma, l'ultima parte di Roma, a parte che ci siamo visti questa mattina alla presentazione. Io non credo che nessuna legge sul Made in Italy riuscirà o possa riuscire a risolvere il problema della contraffazione, perché stiamo parlando di due ipotesi, di due valori diversi. La contraffazione è un cancro dell'economia, quindi è una neoplasia. Non è che chiudendoci, non si può tra l'altro, chiudendoci nel perimetro italiano e facendo dei muri noi vinciamo la contraffazione. Come credo Roma abbia già accennato, molta contraffazione è italiana. Molta contraffazione diventa tale in Italia perché, e questa è una prassi abbastanza comune dei contraffattori. Quel che si diceva prima, i terzisti, Paschi, no? Ma sì, ma le do un esempio molto molto semplice. Io posso far fare dei jeans in Cina e questi jeans come tali non sono né contraffatti né non contraffatti, sono dei cattivi jeans che hanno un certo aspetto. Arrivano in Italia senza etichetta e qualcuno in Italia mette delle etichette che li attribuiscono a una grande marca. Allora, a questo punto la domanda è: con una legge sul Made in Italy avremmo fermato questo? Ma certamente no. Quindi devo dire, non è quello il nodo, lo snodo. Poi mi pare che lo dicesse lei quando valutava il quantum recuperabile detto dal Censis. È chiaro che se questa è una patologia non si potrà mai eliminare al 100%, il problema è ridurla, onestamente. Però se domandate a me la soluzione, devo dire che mi avete fatto la domanda più difficile, nel senso che è da 20 anni che Indicam si occupa di questo, evidentemente diminuire le patologie, eliminare le patologie non è possibile, però le si diminuiscono praticando l'igiene, in questo caso essendo informati, no? L'AIDS, se lo conosci non lo temi. Abbiamo, Paschi, mi scusi, abbiamo un minuto. Repressione ed educazione del consumatore, questa è la sostanza. Assolutamente sì, però l'una cosa senza l'altra non funziona. Anche se, come ci scrive Daniele da Latina, secondo voi tutti quelli che acquistano il falso, se non avessero scelta, si riverserebbero nelle boutique? Brevissimamente, 10 secondi, probabilmente no, Paschi. Assolutamente no, assolutamente non si riverserebbero nelle boutique, però acquistando il falso comunque nutrono un sistema che fa sia la, per così dire, innocua. Le 18:08 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Tra poco parleremo di lavoro e di lavoro dei giovani dopo le parole del ministro del welfare Elsa Fornero, che tra l'altro, come vi ha raccontato anche il giornale radio, è stata contestata ad un convegno a Torino ed è stata costretta a lasciare la sala dopo uno scontro non fisico, da quel che si apprende, tra chi era intenzionato ad ascoltare il ministro e gruppi, così riferiscono le agenzie, di Cobas e di Rifondazione Comunista, che continuavano a disturbare con cori e fischi. La ministra si è detta avvilita, ha detto: ho incontrato i lavoratori della Alenia, oltre 1000, che non la pensavano certo come me, ma mi hanno ascoltata con rispetto. Posso sopportare molte cose, ma non la prepotenza. I mercati. Ciao Condina, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, giornata che sembrava ottima, o comunque molto buona, in realtà poi insomma abbiamo chiuso intorno alla parità a Milano in negativo, le altre piazze finanziarie europee. Sì, si è abbastanza, diciamo, ammosciata a Milano nel pomeriggio, mentre invece le altre piazze europee sono anche addirittura scivolate in negativo, inanellando la seconda seduta negativa consecutiva. Ricordiamo che già venerdì gli indici erano andati male dopo la scia di trimestrali negative provenienti da oltreoceano. Per quanto riguarda Milano, invece, una chiusura poco sopra la parità, più 0,03%, favorita comunque da un buon rialzo delle banche, a loro volta, diciamo, spinte al recupero dal fatto che lo spread BTP Bund resti su livelli piuttosto bassi, attorno a 310 punti base. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Noi veniamo ai singoli titoli. Sono complessivamente, come si diceva bene, le banche: Monte dei Paschi più 3,3, Popolare di Milano più 2,7, Popolare Emilia Romagna più 1,8, UBI Banca più 1,7, Unicredit più 1,67%. Iniziamo però dai titoli negativi, tra i peggiori: Snam meno 3,45%, come mai? Snam oggi staccava il dividendo, quindi questa è una performance che va assolutamente depurata da questo effetto. Tuttavia sul titolo hanno anche influito i giudizi negativi, se così si può dire, degli analisti. In particolare Citigroup ha tagliato il target price, cioè il prezzo che la casa d'affari ritiene congruo per il titolo nel futuro, l'ha abbassato da 4,15 a 4,1 euro, riducendo anche le stime sull'utile per azione del 2012. Ciò ha spinto alcuni investitori a servire il titolo a Piazza Affari. Ricordiamo comunque che Snam viene considerata una delle utility più ghiotte in borsa, anche perché offre un flusso di dividendi molto significativo, e che comunque veniva da 6 sedute in cui aveva guadagnato quasi il 4%. Giudia Sorin del 2,4%, Salvatore Ferragamo altrettanto, Mediaset meno 1,87%, e non è il primo giorno in questo periodo. Non è il primo giorno, non è l'unico titolo editoriale che, ahimè, soffre di una pressione sui margini a causa del calo della pubblicità. Nei giorni scorsi c'era stato un report di Mediobanca che si aspettava per la trimestrale del gruppo del Biscione, che è attesa con molta ansia dagli operatori, una perdita di 97 milioni di euro, una perdita anche in questo caso causata da un calo della pubblicità stimato da Piazzetta Cuccia del 24% in Italia e del 21% in Spagna, che è l'altro mercato core del gruppo controllato dalla famiglia Berlusconi. Giù anche Prismian dell'1,19. Invece su Prismian incidono i conti della concorrente francese Nexan, concorrente francese che ha annunciato un sostanziale taglio degli obiettivi di vendita per fine anno. Anche qui, per quanto riguarda Nexan, influisce la crisi, la diminuzione degli ordini, e quindi anche Prismian cede l'1,2%, scontando questi timori. Pirelli? E anche per Pirelli un discorso per certi versi simile, anche se poi la performance di borsa è diversa, perché Pirelli ha ceduto lo 0,2%, c'era forte attesa per i conti di Michelin, che sono stati diffusi da pochi minuti, e che comunque Michelin è andata peggio sulla piazza francese, perché ha perso l'1,5%. Tra i titoli in positivo ancora un bancario: Intesa San Paolo più 0,23, Generali più 0,3, Parmalat più 0,6, A2A più 0,7, Settimicroelectronics più 0,76%, Mediolanum più 0,81, Campari più 0,86%, Ansaldo più 0,92%. Ecco, oggi la giornata è stata complessivamente negativa per tutti i titoli dell'automobile in Europa, e però Fiat invece si è salvata, più 0,95% Fiat e più 1,28% Fiat Industrial. C'è un motivo particolare, eh? Ma diciamo che Fiat aveva perso parecchio, poi c'è anche la notizia di, diciamo, aveva perso parecchio nelle ultime sedute, poi c'è anche ci sono le dichiarazioni del numero uno di Fiat e di Chrysler nel sud-est asiatico, che ha aperto la possibilità di portare praticamente tutta la produzione di Jeep, che come sappiamo è un marchio di Chrysler, in Cina, perché sostiene appunto il dirigente del gruppo, ci sono enormi possibilità dal punto di vista della scala produttiva, insomma, quindi un possibile sbarco nel mercato cinese evidentemente deve aver stimolato gli operatori all'acquisto. Grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore il Sole 24 Ore e grazie a CEO Condina. Noi adesso ci occupiamo di giovani e lavoro. Intanto però un paio di risposte dovute a chi ancora ci scrive sul tema della contraffazione. Sì, abbiamo letto poco fa il messaggio di chi magari coltiva un sogno, ripetiamo, discutibile o no, si compra una borsa contraffatta pur di avere una borsa appunto firmata, di marca, dite ma che sogno è? Insomma, ognuno ha i sogni che preferisce. Ci dite ancora il tema, insomma, se non ci fosse la contraffazione io comunque la borsa firmata non me la comprerei, vero? Però magari invece si rivolgerebbe a qualche piccola fabbrica italiana che fa roba di qualità a prezzi inferiori, chissà, magari no, Parliamo di lavoro e parliamo di giovani e lavoro con le parole di oggi del ministro Fornero. Io saluto il professore Alessandro Rosina, ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano. Professore, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Per chiarire, visto che credo che sia l'ascoltatore che ce lo chiede sempre, allora, non sono Barisoni ma rispondo lo stesso, non è che abbiamo timori a dirlo, ci chiedete come è andato il titolo Sole 24 Ore, giù dell'1,5%, visto che insomma non è che c'è qualche timore a dirlo, appunto. Allora, col professor Alessandro Rosina, ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, ci sono le parole di oggi del ministro del welfare Elsa Fornero, che tra l'altro, lo ricordiamo ancora la notizia degli ultimi minuti, che ha subito una pessima contestazione, una brutta contestazione a Torino, perché nella sostanza le è stato impedito di parlare. Insomma, non c'è niente di male nelle contestazioni, siamo in democrazia, è tutto, ripetiamo, perfettamente normale. Poi però, come fa notare la stessa ministra, ho incontrato i lavoratori della Alenia che non la pensavano come me, ma mi hanno ascoltata con rispetto. Insomma, questo forse sarebbe un elemento da tenere presente. Comunque, ci sono le parole del ministro che stanno facendo discutere. Lo dico sempre ai miei studenti: non siate troppo choosy, ossia selettivi, esigenti nella scelta del primo lavoro. Meglio essere dentro e poi guardarsi intorno eventualmente. In realtà, insomma, molti giornali, molti colleghi hanno tradotto questa frase come: ai giovani non siate schizzinosi. In realtà, professor Rosina, io mi sono ricordato che l'Istituto Torinese di Milano, insieme all'Ipsos, aveva presentato in giugno e luglio una ricerca nella quale in realtà si dice che i giovani non è che sono poi così chiusi, così selettivi, così schizzinosi, tant'è vero che la maggior parte è ampiamente insoddisfatta del lavoro che svolge. Assolutamente sì, è anche per questo che le parole del ministro rischiano di suonare irritanti alle orecchie di molti giovani, perché loro si rendono conto, molti di loro, noi abbiamo fatto questa indagine che è la più grossa in Italia sui giovani, sono 9.000 giovani tra i 18 e i 29 anni, proprio per capire effettivamente qual è la realtà e come si stanno muovendo nel mercato del lavoro. E quello che viene fuori è che stanno cercando di adattarsi il più possibile, rendendosi conto anche della difficoltà della crisi. C'è un 50% circa che è insoddisfatto della propria retribuzione, eppure appunto accetta un lavoro di questo tipo. Il 40% fa un lavoro sottoinquadrato. Quindi insomma, quello di rimboccare rimboccarsi le maniche, di darsi da fare, è già entrato insomma nella logica di delle nuove generazioni che cercano in qualche modo di far di necessità virtù e di confrontarsi comunque con il mercato del lavoro e non rimanere fermi. Tra l'altro, dalla vostra ricerca emergeva che quasi la metà del campione era disposto ad andare all'estero, no? Esatto, e poi c'è questa cosa che fa, cioè se noi diciamo ai giovani, infatti il rischio di interpretare male le parole del ministro Fornaro, che forse non intendeva dire questo, però se l'idea è che i giovani devono adattarsi al ribasso a un paese che fa fatica a crescere, non trova la strada dello sviluppo e non crede nei talenti e nelle capacità dei giovani, e anziché spingere i giovani a dare il meglio di sé, ad incentivare a dare il meglio di sé all'interno del mercato del lavoro che cerca di valorizzarli, e dà il messaggio che invece devono adattarsi al ribasso a un paese che non trova la strada giusta, la via giusta, e quindi rassegnarsi a essere dei talenti sprecati, è chiaro che parole di questo tipo spingeranno ancora di più molti giovani che invece vogliono essere valorizzati e vogliono mettere in campo le loro capacità in un paese che crede, o comunque in un contesto che investe in ricerca, in sviluppo, in competenze, se ne andranno sempre di più all'estero. La ringrazio, grazie al professor Alessandro Rosina, ordinario grazie di demografia all'Università Cattolica di Milano, e buonasera. Buonasera. Noi adesso andiamo brevemente sul tema della corruzione. Allora, ci sono anche dei dati economici nel rapporto sulla corruzione presentato oggi. Secondo stime della Banca Mondiale, la crescita del reddito potrebbe essere superiore del 2-4% con un'efficace lotta alla corruzione. Dove la corruzione è più bassa, il settore delle imprese cresce fino al 3% anno in più. Per ogni grado di aumento del livello di corruzione si ha una riduzione del 16% nel flusso degli investimenti stranieri diretti. Corruzione che è una tassa aggiunta per gli appalti, quantificabile nel 25% dei costi generali, il sovraccosto per le piccole e medie imprese è del 40%. 75 milioni i fondi recuperati nel 2011 attraverso le condanne di primo grado per corruzione, in sede di appello i 75 milioni però si sono ridotti a 15. Siamo 69esimi nella classifica mondiale sulla corruzione, come sapete. Abbiamo tempo solo per una voce, vediamo... Sentiamo quella del ministro della Pubblica Amministrazione, Filippo Patroni Griffi, sulle proposte avanzate per fronteggiare il fenomeno in alcuni settori chiave. La Commissione ha analizzato molto approfonditamente alcuni settori, sanità, appalti pubblici, urbanistica, in cui il rischio corruzione è molto elevato, ne ha individuato le criticità e ha fatto delle proposte concrete per risolverlo, sia sul piano normativo sia sul piano amministrativo. Sapete bene che il disegno di legge già contiene alcune deleghe o comunque contiene la previsione di strumenti attuativi. Io posso dire che per quel che ci riguarda, almeno per la delega sulla trasparenza, sui codici di condotta e sulle incompatibilità dei dirigenti, cercheremo di concluderle in questa legislatura, o comunque di andare molto avanti nella predisposizione dei relativi testi. Sono deleghe importanti, perché quella sull'incompatibilità degli incarichi dirigenziali mira a colpire per esempio l'attribuzione di incarichi dirigenziali ad ex amministratori o ex politici dello stesso ente, oppure a soggetti che abbiano ricevuto una condanna anche in primo grado. Qui non c'è il problema di ordine costituzionale dell'incandidabilità per reati contro la pubblica amministrazione. Allora, il cambio di base sottolinea il cambio di argomento. Veniamo a parlare, abbiamo insomma pochi minuti, però volevamo toccare il tema della legge di stabilità, perché ci sono i partiti, come sapete, che stanno facendo pressione per modifiche, ve lo dicevamo già all'inizio della trasmissione. Il PDL grida al tradimento su detrazioni e IVA, la parte sulla scuola non va bene, dice il segretario del Partito Democratico. Oggi iniziano gli incontri di Monti con le parti politiche. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Tra l'altro di Dino Pesola io ve lo ricordo, perché insomma sappiamo che professionista è, il prossimo 24 ottobre, tra due giorni, esce in libreria Il Salasso, 5 mosse per non finire dissanguati dalle tasse, 5 mosse per cambiare il fisco. Speriamo che qualcuno tragga giovamento dai suggerimenti di Dino Pesola, con la prefazione di Carlo Azeglio Ciampi ed edito da Castelvecchi. Allora Dino, verrei alla questione centrale, la questione dei saldi, i famosi saldi che devono rimanere invariati. Siamo ancora a quel punto, insomma. Come pensi che il governo possa ottemperare alle pressioni politiche da una parte e alla stabilità dei saldi dall'altra? Il problema di queste ore si chiarirà, credo, il tutto entro un paio di giorni, perché in effetti la manovra ha un suo equilibrio, un equilibrio discutibile, che insomma è sottoposto a numerose critiche e pressioni da parte politica e non solo, per il famoso scambio IVA-IRPEF, no? Lo ricordiamo, cioè da un lato la previsione di ridurre i due punti, le due aliquote, cioè di un punto per uno le due aliquote minori dell'IRPEF del 27 e del 23, a fronte però di un taglio delle detrazioni, e dunque a questo punto il saldo per molti potrebbe addirittura essere negativo. In più c'è la previsione che aumenterà l'IVA dal 1 luglio del 2013. Questa operazione ha un suo equilibrio all'interno, perché la manovra a regime vale circa 13 miliardi e gran parte della copertura per gli sgravi dell'IRPEF viene ottenuta proprio attraverso il combinato del mancato aumento dell'ulteriore punto dell'IVA e della la tagliola sulle detrazioni. Allora, a questo punto il governo sta intanto sondando le effettive volontà delle forze politiche, che poi è un governo tecnico, ma poi la manovra va votata in Parlamento, e la sensazione che abbiamo un po' tutti qui è che le modifiche ci saranno e saranno anche abbastanza vigorose, nel senso che probabilmente si metterà mano in modo massiccio a questo impianto. Fermo restando che però, lo ha detto Grilli proprio mezz'ora fa, non si può però immaginare che il saldo complessivo venga modificato, e soprattutto l'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali dell'anno prossimo. Se questi due paletti verranno rispettati, all'interno della manovra si potranno individuare altre fonti. Questo spetterà anche ai parlamentari. Io credo che l'unica strada sia individuare ulteriori tagli alla spesa, perché agire ancora sulla pressione fiscale mi sembrerebbe suicida. Grazie Dino Pesola per questo breve collegamento. Poi insomma abbiamo poco tempo e siamo quasi in chiusura. Io ringrazio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Paolo Corleoni in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Simone Spezia come sempre, e buona serata. Radio 24. La passione si sente.